Misty Copeland, ballerina. Era una magnifica sera quando Misty salì sul palcoscenico di fronte a un pubblico ammutolito per danzare da protagonista in un balletto intitolato L'uccello di fuoco. Misty era l'unica afroamericana in una delle compagnie di ballo più famose al mondo ed era il suo esordio come prima ballerina. Si alzò il sipario e le sue braccia si mossero aggraziate come le ali di un uccello. Misty piroettò e volteggiò per tutto il palcoscenico in lunghi e splendidi salti. Il pubblico era incantato. Quando alla fine calò il sipario, tuttavia, rivelò un segreto che nessuno avrebbe potuto immaginare. Si era fatta male a una gamba e aveva sofferto molto durante tutto lo spettacolo. Aveva 6 fratture alla tibia sinistra e doveva essere operata. Sembrava uno scherzo crudele. La sera stessa in cui il suo sogno si realizzava, gli veniva detto che forse non avrebbe mai più potuto danzare. Per Misty era inaccettabile. Amava troppo la danza. Era stata la danza a trovare Misty quando aveva 13 anni e viveva in un motel con la sua madre e i suoi 5 fratelli. Era stata la danza a trovarla quando non avrebbe mai pensato di potersi guadagnare da vivere con qualcosa che le appassionava tanto. Così si sottopose all'operazione e alle successive terapie e lei si impegnò con tutte le sue forze per tornare in forma e danzare di nuovo con l'America Ballet Theatre. Alla fine ce l'ha fatta e ora può dire di aver danzato anche nel Lago dei Cigni, un vero cigno nero, più forte ed elegante che mai. Nata il 10 settembre 1982 negli Stati Uniti.